del primo round, delle domeniche della tenda, parte che abbiamo sempre fatto qualcosa, ma così ordinate e prestabilite come quest'anno non l'avevamo mai fatte, allora siamo all'ultima. E poi all'assemblea avevamo già accennato agli argomenti della prossima tornata, se vogliamo confermarla, li discutiamo poi ancora un momento, anche se il progetto c'è già, ecco, io l'ho già mandato a Franca e a Lorenzina, poi l'avevamo accennato due domeniche fa, lo discutiamo un momento e se ci decidiamo lo mettiamo a programma, ecco, senza farci chissà che problemi, chi può, chi vuole viene, chi non vuole non viene, se ci siamo in 10 ci siamo in 10, se siamo 20 siamo 20, se siamo in 3 siamo 3, se non c'è nessuno tutto continua come prima, e bisogna prendere la vita e quel che si fa con filosofia, come si dice, no? Anche perché le situazioni sono così tante, diverse, che si fa come si può. Vedete ben che anche nelle parrocchie, per le grandi comunità, ho preso 131, perché dovendo parlare della sofferenza e del dolore, siamo talmente in una zona, come dire, complessa e misteriosa, perché uno si ammala, l'altro no. Va bene, la scienza ci dirà perché uno è debole di costituzione, ereditarietà, tutto quel che volete, ma perché se c'è un Dio che è padre, che è amore, che succedono queste cose, perché la violenza, perché la sofferenza, perché di fronte a tutte queste cose diremo che sì, possiamo tentare un avvicinamento andando a vedere cosa Gesù ha detto e come si è comportato, ma poi rimane sempre una zona così misteriosa che il credente risolve soltanto rimettendosi a un mistero più grande di quello che la ragione può comprendere. Ecco. Il Salmo 131 è uno di questi salmi che, pur provenendo dall'Antico Testamento, possiamo dire che è il salmo dei piccoli, no? Diventate, se volete entrare nel regno dei cieli, dovete essere come uno dei bambini, come un bambino, no? Ma non nel senso di capriccioso, nel senso che non pensa e non ragiona. Da adulti riuscire a recuperare quello che di meglio c'è nell'infanzia e viverlo con semplicità, con gioia. Ecco, questo è il salmo con cui ci si rimette a Dio come a una madre addirittura. Il Nuovo Testamento non ha usato nemmeno tanto l'Antico Testamento, con tutti i limiti e i difetti che ha nell'averci presentato un Dio talora violento, Dio della guerra, Dio degli eserciti, e poi guarda caso è l'Antico Testamento che ci presenta Dio come padre. Stentatamente Israele è arrivato ad accettare l'idea della paternità divina, perché urtava contro molti presupposti: Dio ha un sesso, Dio si unisce a una donna, eccetera. Sapete che l'Islam attualmente, fra i 99 nomi dati ad Allah, non c'è l'appellativo di padre, lo escludono per via di questa paura di pensare a un Dio sessuato. E invece Israele poi ci è arrivato, Gesù ci è arrivato, anzi partito di lì, la grande convinzione, ma l'Antico Testamento espressamente, quasi espressamente, ha dato a Dio il titolo di madre, le attribuzioni di madre. Questo, il titolo no, la parola proprio madre, Dio madre, non, l'Antico Testamento non lo usa, ma attribuisce tutte a Dio, tutte le quello che fa una madre. Questo è molto bello, questo Salmo 131. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, non si è il cuore per gli ebrei, per il salmista sapete che è la vita, non mi voglio inorgoglire, ho il senso del mio limite, poi parole prescindere dalla fede, estremamente sagge, no, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non guardo nessuno dall'alto, anche se sono onorevole presidente di qualche cosa, dei consigli, ecco, capi di Stato, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. È il salmo della semplicità, la preghiera che penso è cara a tutti, perché tutti sogniamo, specialmente a una certa età, dopo aver fatto l'esperienza della vanità della vita, dei successi umani, delle carriere, dei titoli o titolacci che siamo riusciti a prendere nella nostra vita, diciamo, a una certa età diventiamo forzatamente saggi, perché siamo costretti a guardare l'essenziale in faccia. E allora sogniamo tutti questa Gesù che era saggio e furbo, ha detto: sì, io sono giovane, perché in fondo era giovane, dice, ma mi pare che questa sia l'esperienza della vita, se potete essere semplici come dei bambini, forse godrete la vita che è passata e godrete meglio quella che dovete ancora passare. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Bisogna andare in cerca di cose grandi, perché è un dovere, un'aspirazione, ma notate, di cose grandi, superiori alle mie forze. È perché è pericoloso il terrestre, se avete una macchina che vi può portare solo ai 100, volete andare ai 200, probabilmente fondete il motore, tutto finito. Ecco, superiore alle mie forze, valutare le proprie forze, saper dire fin lì posso e devo andare, poi oltre basta, perché se no esagero. Superiore alle mie forze, io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre. Ecco Dio madre, come un bimbo svezzato, notate, non un bimbo appena nato, bimbo che succhia il latte, che non ha ancora problemi svezzato, ha già subito il trauma del distacco dalla madre, eccetera, quindi non un bimbo, come dire, così spensierato, ma un bimbo che è un uomo, che sa che cos'è la sofferenza, il dolore, il distacco dalle cose, dalle persone, da se stesse, e rimane tranquillo ugualmente. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Poi è veramente il salmo della semplicità, il salmo della serenità dello spirito, il salmo della prima beatitudine, beati i poveri, ecco, in spirito, cioè quelli che sanno accontentarsi, che non sono troppo, che non sono egoisti più del necessario, che sanno, ecco, avere il senso delle proporzioni. E poi guardate la finale, le preghiere più belle sono quelle brevi, è breve, ma molto intensa. Potrebbe dire che bravo che sono stato, come sono contento, cosa mi importa degli altri, no? Dice no, vorrei che tutti potessero fare un'esperienza spirituale del genere, tutto il popolo potesse essere felice, contento, saggio, ecco. Allora la preghiera finale che estende l'impegno della preghiera personale, la preghiera comunitaria di tutto Israele, speri Israele nel Signore, ora e sempre. Ecco il gioco del cristiano che dovrebbe vivere personalmente e poi vivere la fede all'interno della comunità cristiana in cui vive. Ecco. Beh, mi pare che ci introduca molto bene il tema della sofferenza e del dolore. Vediamo nella nostra prima seduta, ecco, questa è la nostra prima riflessione. Gesù è la sofferenza, che il cristiano, cosa volete che può andare a vedere San Tommaso, che cosa ha detto sul dolore, sulla sofferenza. Tommaso vi rimanderà ad Aristotele, agli altri filosofi, quel che volete, ma il credente cristiano è tale perché si rifà alla parola di Dio, alla parola soprattutto che si manifesta. conquistata attraverso Gesù. Allora il cristiano, la catechesi, l'evangelizzazione personale e comunitaria dovrebbe partire di lì, non dal catechismo di Santa Romana Chiesa, ma dal Vangelo. Anche perché il catechismo vale nella misura in cui ci passa il Vangelo, se no sono tutte frotte e ci può contare il termine più o meno. Quindi la sorgente è sempre meglio che bere ai vari ruscelletti che ne derivano mano a mano che il fiume va giù in pianura, no? Allora ispiriamoci al Vangelo. La grande differenza tra i biblisti e i teologi è questa, che i teologi spendono un sacco di parole, di discussioni a filosofeggiare sul messaggio del Vangelo, poi la chiamano teologia perché parla di Dio, parla del Vangelo, mentre i biblisti o i cristiani che si ispirano più direttamente alla Bibbia, ai Vangeli, lasciano cadere tante altre questioni e si interrogano su quello che Gesù ha detto e su come Gesù si è comportato e si ispirano a questo più che al resto. Ripeto, il resto, cristianamente parlando, prende vigore e consistenza dal fatto che si riferisce a Gesù. È sempre vero che è difficile interpretare quello che Gesù ha detto e quello che Gesù ha fatto, ma difficile o non difficile, bisogna andare a bere con la sorgente. Allora, Gesù e la sofferenza. Secondo i Vangeli, Gesù ha incontrato numerosi malati, quindi lo sappiamo dal Vangelo, ha sofferto molto lui stesso. In questa situazione, ecco, quando ha incontrato i malati, i sofferenti, gli emarginati, i peccatori, quel che volete, quando ha sofferto lui stesso, ecco, parlando di Dio, come ne ha parlato? Ecco, di quale Dio ha parlato Gesù quando incontrava gli ammalati o quando lui stesso ha sofferto? Gesù non ha sofferto malattia, nonostante la Vangelo, avrà avuto mal di pancia qualche volta. Una volta non era peccato pensare che Gesù avesse avuto mal di pancia, mal di denti, qualche cosa. Chissà se aveva tutta la dentatura perfetta, chissà se era il bel ragazzo che immaginiamo, il bel giovanotto che immaginiamo, oppure era mezzo fiancato, chi lo sa, non sa mica niente. Poi l'ideologia ha costruito tante cose anche lì, ecco. Ma i Vangeli non... Buongiorno, ben arrivati. Gesù ha sofferto psicologicamente, ecco, spiritualmente durante la sua esistenza, come tutti. Di quale Dio ci ha parlato? Perché così sapremo nella sofferenza, nel dolore, quando incontriamo gli altri o quando tocca a noi, come dobbiamo pensare a Dio. Vediamo un po' il comportamento di Gesù verso i sofferenti. Prima di tutto, il comportamento di Gesù verso i sofferenti è sempre stato di profonda compartecipazione. Gesù si è lasciato emozionare, si è lasciato turbare, ecco, ha sentito profonda compassione, ha pianto. Profonda compassione, prendete la compassione nel senso latino, cioè fa compassione, compassione non è quella, compassione è compassione è compazio, patisco insieme all'altro, cioè sento la stessa passione, prendete passione in senso anche filosofico, il sentire, la tensione, ecco, compassione, una parola molto bella, che non significhi soltanto così, che lei fa compassione, come carità, una parola bellissima, a patto che non significhi fare la carità, buttare un euro a qualcuno e tutto finito. L'agape, la carità, quello che traduciamo carità, amore, nel senso nel testo greco di Paolo, no? Un significato totalmente diverso. Dall'euro buttato poveracci. prendete un po' Marco 9, 35, 36, vi do qualche citazione, poi leggendo poi i Vangeli trovate questi altri passi. Matteo 9, 35, 36, Matteo 9, 35, 36. Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, non scappato da casa, invece di continuare a fare il mestiere di suo padre, perché allora soprattutto il figlio doveva fare il mestiere del padre. Invece Gesù ha deciso, vabbè, io faccio profeta itinerante, con gran dispetto di sua madre, dei suoi fratelli, delle sue sorelle, figurarsi di Giuseppe, dicono i Vangeli. Tant'è che sono andate a convincere di tornarsene a casa, perché era matto, si è matto, matto questo nostro figlio, figlio dei fiori. Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, sottolineate una cosa che forse ho già detto altre volte: quando i Vangeli ci dicono che Gesù va in sinagoga, sinagoga era la chiesa del paese, era gli ebrei, va in sinago, in greco è metto insieme, ha lo stesso significato di ecclesia in greco, chiamo da diverse, di diverse parti per diventare comunità in quel momento. Ecco, ecclesia, da cui chiesa, eglise francese, ecco, deriva dal sinagoga ebraica, sinagoga metto insieme. E quando, dicevo, i Vangeli ci dicono che Gesù va in sinagoga e poi nella grande sinagoga, ecco, che le raccoglie tutto il Tempio di Gerusalemme, cosa scandalosa per i più, ma i più leggono il Vangelo senza rendersi conto di che cosa il Vangelo dice, anche perché siamo talmente abituati a questi testi che non ci parlano più. Quando i Vangeli dicono che Gesù va in sinagoga o al Tempio, non dicono mai, ripeto, cosa scandalosa per noi, che vada per pregare, va per insegnare. Per pregare Gesù non andava nelle chiese del Tempio, non andava in sinagoga. Poi avrò pregato anche in sinagoga, intendiamo, quelli sono affari, ma i Vangeli non dicono quello. I Vangeli dicono che per pregare andava nei boschi, andava da solo, manco diceva pregate, ecco, o preghiamo, mai detto a nessuno di pregare, pregava lui, tanto che i discepoli un certo giorno, secondo Luca, il Padre Nostro è nato così, secondo Matteo no, ma secondo Luca è nato così, lo vedevano, dice, scappava, lasciava lì tutti, si raccoglieva, diceva cosa va a fare il ritiro spirituale, perché non porta anche noi a pregare, perché non insegna anche a noi, insegna anche a noi una preghiera, anche perché ci tenevano, in quanto tutti i maestri del tempo, i rabbi, i profeti avevano il loro gruppo e facevano la loro preghierina speciale, come Comunione Liberazione fa la sua preghiera, come i domenicani hanno la loro preghiera, come i francescani hanno la loro preghiera, come i gruppi di Padre Pio hanno la loro preghiera. Adesso escono le agende, i libri di cucina dedicati a Padre Pio, come avete visto, perché rendono estremamente ai frati questi libri, ecco, e vanno da pagarsi tutte le spese fatte per la Basilica, per altre cose, ecco. E allora gli apostoli dicevano, ma insomma i discepoli di Giovanni pregano in un determinato modo, hanno il loro libretto delle ore e noi niente, ma che razza di maestro abbiamo e che razza di discepoli siamo, e segnaci una preghiera, segnaci a pregare. E allora Gesù, come sapete, da Luca dice, quando pregherete, dite così, Padre nostro, l'ha detto, e poi si sarebbe messo nei capelli se avesse pensato che quella era l'unica preghiera che i cristiani avrebbero saputo ripetere nel corso dei tempi, ecco, senza cambiare una parola, né manco avere il coraggio di correggere gli errori di traduzione che ci sono, perché quando qualche anno fa hanno proposto di cambiare l'acqua, la frase che a nessuno va giù, non ci indurre in tentazione, sono saltati su soprattutto i grandi laicisti del nostro tempo, per dire ci tolgono ancora il Padre Nostro. Era una delle poche cose che ricordavano magari dall'educazione che avevano ricevuto. Quando c'è non ci indurre in tentazione, mentalmente sostituitelo con non permettere tutto più, ecco, non permettere che cadiamo nella tentazione, perché in altre parti il Nuovo Testamento ci assicura che Gesù non gioca mai in questa, che Dio non gioca mai in questo modo con gli uomini, per tentarli al male, per provare se sono buoni o se sono cattivi, sono stupidaggini quelle lì. Il Padre non si comporta così con i figli, sistematicamente. Ecco, insegnando nelle loro sinagoghe, vedete, nei Vangeli non c'è nessuna parola inutile, nel Vangelo è tutto soppesato, sono dei grandissimi scrittori gli evangelisti, grandissimi catechisti, non usano mai una parola in vano, bisognerebbe avere tempo e capacità di poter riflettere su ogni parola, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno. Beh, dietro a questa parola Regno non c'è la monarchia di cui Carlo ha portato l'afflato a Torino per il Salone del Buon Gusto, ecco, no? Quella d'Olanda, al Quirinale, prima che il nostro Presidente andasse a farsi operare l'altro giorno. No, cosa regno di Dio, cosa mai sarà il regno di Dio? Signoria, monarchia, Israele che sognava il re, che sognava Davide, che sognava, e allora parla del regno, ma non di Davide, regno di Dio, cosa vorrà dire? Non abbiamo tempo. E cercando e curando, ecco quello che ci interessa, ogni malattia e infermità, siccome allora non c'erano i dottori, e allora Gesù si mette a lui a fare il dottore, ben sapendo che ci sono tante malattie che si possono guarire anche se non si è specializzati in medicina, tagliare di chirurgia o a dare pillole e altre ricette. Ci sono delle malattie spirituali, delle malattie affettive, delle malattie psicosomatiche che tutte potremmo in qualche modo esercitarci a curare. Curando ogni malattia e infermità, vedendo le folle, ne sentì compassione, vedete, perché erano stanche e sfinite. Accorgersi che la gente è stanca e sfinita, pecore senza pastore, le pecore senza pastore. Bel testo, no? Matteo 9, 35, 36. Matteo 14, 14, in occasione della prima moltiplicazione dei pani, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Guarì, perché dare da mangiare è importante, ma poi bisogna dare anche da mangiare in senso più profondo. Guarì, avete tanto pane e companatico da morire per il troppo mangiare, ma morite perché dentro non c'è del pane che vi alimenta in direzione più profonda. Date loro, cita il versetto 16, date loro voi stessi da mangiare, ma smettetela di provocarmi con i miracoli, con l'esigenza dei miracoli. Fateli voi i miracoli, date voi da mangiare a questa gente. Matteo 15, 32, in occasione della seconda moltiplicazione dei pani, Gesù dice ancora, sento compassione di questa folla, sento compassione di questa folla. Luca 7, 13, in occasione della rianimazione del figlio della vedova di Nain, vedendola il Signore ne ebbe compassione e le disse, non piangere. Questa parola che fa così bene, non piangere, non piangere. Ne ebbe compassione. Notate cosa dice Luca, il Signore, perché quando ormai gli evangelisti scrivono, non è più Gesù di Nazareth che presentano, è il Cristo risorto, è il Signore del Regno, il Signore, e allora possono farli anticipare addirittura ai pastori a Betlemme o ai magi, possono metterli in bocca il Signore, che non ci sono mai sognati di dire, quelli storicamente, ma quando storicamente scrivono i Vangeli, la fede cristiana ha maturato la certezza che il Gesù di Nazareth era il Cristo della fede, era il Messia, e allora quando fanno parlare, riferendosi a Gesù, gli fanno già dire Signore da tutti i tempi, non è vero? E entrate uno per volta nella dinamica della Bibbia, dei Vangeli. Giovanni 11, 31, 32 e seguenti, quando Gesù, Giovanni 11, la risurrezione di Lazzaro, quando Gesù va in casa, ecco, vede piangere Marta e gli dice arrivi sempre in ritardo, che razza di amico sei? Signore, se tu fossi, Signore, anche lei, Signore, se tu fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe morto. E l'evangelista dice che si commosse profondamente, si turbò e scoppiò in pianto. Altro che un Gesù asettico, Gesù, ecco, compassionevole per tutti, ma più o meno freddo, uguale con tutti, no? Gesù era un uomo che sentiva fortemente l'amicizia, la commozione, eccetera. Si commosse profondamente, si turbò e scoppiò in pianto. Ecco, Gesù non è mai stato indifferente davanti alla sofferenza. Come si può essere sofferente davanti alla sofferenza? Gesù non è mai stato indifferente. Non ha mai goduto delle sofferenze di nessuno, anche di quelli che lo volevano morto, non ha mai goduto delle sofferenze di nessuno. Chi arriva a questo, a godere della propria sofferenza, o a godere delle sofferenze degli altri, di un animale, Dio fa soffrire un animale, eccetera. E oggi possiamo dirlo con la parola che usiamo, è un sadico. È un votato al sadismo. Ma la certezza, a proposito di Gesù, in confronto della sofferenza, è questa di chiaro. Seconda istanza, Gesù non ha mai, un po' più impegnativa già per la nostra riflessione, Gesù non ha mai invitato ad offrire la sofferenza a Dio. Non si è mai sognato Gesù di dire offri, oh quanto soffri, ma offri la tua sofferenza a Dio, che è preziosa la sofferenza. No, non risulta dai Vangeli. Gesù non ha mai invitato ad offrire la sofferenza a Dio, e offrirla sia a vantaggio del malato o sia a vantaggio degli altri. Dice, e tu sei buono, soffri, ma offri a Dio la tua sofferenza per la salvezza degli altri. Vi ricordate 40-50 anni fa, quando a Carnevale gli altri facevano peccati, andavano a ballare, a divertirsi, cioè, e le anime veramente pie, devote, in seminario, alle suore, eccetera, facevano penitenze, ora d'adorazione, perché Dio, per bilanciare le cose, che razza di Dio. Pensiamo a un Dio padre che ha bisogno della sofferenza di un figlio per perdonare le marachelle degli altri. Ma sono stupidi pensare questo. Il Dio di Gesù non chiede che gli vengano offerte sofferenze. È un Dio che non vuole sofferenze. Il Dio di Gesù è il Dio dei cristiani. Non ama la sofferenza. Non chiede mai Gesù che vengano offerte sofferenze a Dio o sacrifici. Anzi, il Dio di Gesù, e Gesù in quanto figlio di Dio, non chiede sacrifici, ma chiede misericordia. E sapete che il Gesù di Matteo, questo mi pare che l'abbiamo detto una qualche volta, il Gesù di Matteo riprende per ben due volte, se voi volete le citazioni, o se no leggendo il Vangelo di Matteo, state attenti, il Gesù di Matteo riprende per ben due volte una frase che era già del Dio di Osea, E come Osea siamo nel secolo VIII avanti Cristo, là dove già il Dio dell'Antico Testamento, a proposito di quei sacrifici, scannamenti di animali che si facevano al Tempio per dare lode e gloria a Dio, il Dio di Osea diceva: misericordia voglio e non sacrifici. Non mi interessano quei sacrifici, ne faccio niente. Voglio che siate compassionevoli, che siate misericordiosi, che vi vogliate bene. Questo vuole, perché ecco, Giovanni ce lo dirà, Dio è amore, ed era già amore nell'Antico Testamento, e uno di quelli che hanno parlato su questo tema e allargato la visuale dell'Antico Testamento è proprio il profeta Osea. Come sapete, tutta la spiritualità che fa capo al Dio della tenerezza, che poi è espressa nel Cantico dei Cantici, viene dal profeta Osea, padre spirituale Isaia, secondo Isaia in parte, ma soprattutto di Geremia, che si è ispirato, non ha conosciuto Osea direttamente, ma si è ispirato a queste parole forti del Dio d'amore, ed è proprio Geremia che farà dire anche a Dio nei confronti di Israele di amore eterno: io ti ho amato di amore eterno. Allora, niente sofferenza, Dio non piace, misericordia voglio, non sofferenza e non sacrificio. E perché Gesù, chiediamoci allora, perché Gesù non ha chiesto di offrire a Dio la sofferenza? Perché? C'è un motivo, no? Ma perché non ha attribuito Gesù alla sofferenza in se stessa alcun valore positivo? La sofferenza in se stessa non è un valore, non ha valore. La sofferenza è un male, basta. La sofferenza ci fa soffrire e lo percepiamo come un male, ed è un male. Da questo male bisogna cercare di uscirne, se è possibile, grazie ai medici che possono curarci, grazie al conforto degli amici. Ecco, bisogna tentare di uscirne, grazie al fatto che possiamo arrivare a una rassegnazione, ad una accettazione, perché comprendiamo che la vita è così, bisogna uscirne per quanto è possibile. Da nessuna parte Gesù afferma che la sofferenza serve alla salvezza. Questo può sconcertarci, perché una spiritualità ci ha abituati ad attribuire chissà che valore salvifico alla sofferenza. E soprattutto il valore salvifico alla sofferenza numero uno, quella della morte di Gesù. Ma oggi la teologia non è più su questa linea, oggi si cambia rotta, finalmente, secondo me. La sofferenza non serve alla salvezza, la sofferenza non serve alla santificazione personale, perché quando si soffre i più si ribellano, altro che santificarsi. Non serve alla espiazione propria o di altri la sofferenza. Oh, amici cari, serve l'amore, non la sofferenza. Siamo sempre lì. Purtroppo, riprendo l'idea, nel corso dei secoli, vari tipi di spiritualità sono andati, non solo nel cristianesimo, ma anche presso altre religioni, sono andate nella direzione opposta quello che stiamo dicendo, che hanno attribuito alla sofferenza tutto quello che, tutti i valori che sappiamo. Facciamo qualche esempio. San Vincenzo de Paoli, sapete tutti, è il santo dei Vincenzini, il santo della carità, è quello che ha fondato le suore, noi le chiamavamo cappellone o portaerei, perché avevano il cappellone una volta enorme, floristico quanto mai, non sia la suora di San Francesco, non di San Vincenzo, se non si aveva quel cappellone con tutte quelle. San Vincenzo de Paoli, sentite che cosa dice: la sanità, la malattia, tutto quanto avviene nell'ordine della sua provvidenza, sarebbe la provvidenza divina. Allora è Dio che vi manda la salute, Dio che vi manda la sofferenza. Ecco, tutto quello che avviene nell'ordine della sua provvidenza e in qualche modo per il bene avviene per, in qualche modo per il bene la salvezza dell'uomo. Ancora, dice, lo stato di sofferenza è una fortuna che santifica le anime. Ma amici cari, tenetevela voi quella fortuna lì, ci dicono gli ammalati che soffrono. Se è una fortuna, perché non preghi che venga a te e lasci libero me. Pascal, il grande Pascal, che non è detto che i grandi non siano piccoli qualche volta in certe cose. Il grande Pascal diceva che le mie sofferenze servano a placare la vostra collera. E la vostra collera è quella di Dio. E le mie sofferenze servono. Ma che Dio è quello dell'Antico Testamento che ha bisogno di sofferenza per calmare il fatto che è arrabbiato? Sembra, senza le mie sofferenze, aggiunge, io non potrei arrivare alla gloria. Allora vuol proprio dire che sono le sofferenze che ci fanno arrivare alla gloria. E questo è un tipo di spiritualità che conosciamo molto bene. Per non andare a Pascal o a Vincenzo De Paoli, che sono lontani nei secoli ormai, pensate alla buona e santa madre Teresa di Calcutta. Riferiva un giornalista a proposito di madre Teresa che un ammalato che si era sentito rincuorare con il pensiero che la sofferenza era per lui come un bacio di Dio, ecco, le rispondesse: non può chiedere a Dio che mi baci un po' meno. Vedete, Gesù non ha mai detto a nessuno che la sofferenza, la malattia e la morte sono dei baci di Dio. Eppure era Gesù, non ha mai detto, mai avuto il coraggio di madre Teresa. Ha detto e dimostrato il contrario. La salvezza di Dio, ci ha detto e dimostrato Gesù, si realizza contro la sofferenza, facendo retrocedere la sofferenza ed il dolore per quanto è possibile. Gesù non invita mai alla rassegnazione, ma stimola il desiderio della guarigione. Giovanni 5:1-9, se andate a vedere questo episodio significativo del cieco, ecco, il lezzetto di Betesda, la piscina di Betesda è tutta tirata fuori dall'archeologia a Gerusalemme. Se andate a Gerusalemme, chi è andato se lo ricorderà, se andate sulla spianata del Tempio, poi uscite dalla spianata verso la Porta dei Leoni o di Santo Stefano, ma non uscite per scendere al Getsemani, ma proseguite oltre la strada che deriva dalla Porta di Santo Stefano. Voi vi incontrate quasi subito a destra con una bellissima chiesa dedicata a Sant'Anna, una delle più belle chiese crociate, conservate in Palestina, con un'acustica perfetta, La nostra guida, che poi era Maria, era Luisa, noi quando andavamo in Palestina, adesso ci sono, lavorano là, una famiglia molto felice, molto bella, la mia, perché lui è un tedesco, un focolarino tedesco, che ha incontrato lei, Luisa, la focolarina, credo anche lei, non lo so come, l'abbia incontrato, che è di Betlemme, che ha un fratello sacerdote, eccetera. E come non è, si sono sposati, sono qui da Gerusalemme. Lui sta curando anche lei, sono archeologi, stanno curando gli ultimi scavi per una Emmaus nuova, perché Emmaus ce ne sono già due o tre, ma stanno scavandone un'altra che potrebbe essere quella veramente evangelica, dicono. Poi vanno a sapere come sarà, cosa non sarà. Quando andavamo alla chiesa di Sant'Anna cantava sempre l'Ave Maria in arabo, ma era come come se ci fosse il coro della Sistina, una chiesa bellissima. E a due passi uscite da quella chiesa, a due passi a sinistra ci sono i resti della riscavate della piscina di Bethesda, dove Giovanni capitolo 5 ambienta la guarigione del cieco. E gli chiede: vuoi tu guarire? Vuoi tu guarire? Punto interrogativo. Gesù stimola il desiderio della guarigione e non la non predica la rassegnazione. Gesù poi ha compiuto gesti di guarigione, non si è accontentato di parole, ha compiuto gesti di guarigione e non ha indagato se l'ammalato era meritevole o no della guarigione. Dice: aspetta un po', tu sei della DC, ti guarisco. Adesso non c'è più una di guarisco. Se sei un fariseo, no, se sei un pubblicano, sì, ti guarisco. Guarito. Dirà nella parabola, sì. Aveva questa possibilità di guarire con estrema facilità. Estrema facilità. Non lo dici tu, estrema facilità. Sì, da quello che ho capito io, allora correggo un po'. E però le guarigioni, da quello che ho capito io, non è che sono prestate tantissime. E appunto. Abbi pazienza, dopo verranno fuori. Era meritevole o no della guarigione? Non ha preteso contropartite. Ti guarisco a patto che tu vada tutte le domeniche a messa, quando la chiesa avrà messo il precetto festivo. No, la gratuità regna nel Vangelo, perché Dio è gratuito, non chiede, io ti dono e basta. Vuoi accorgertene e dirmi grazie? Ben sia, non te ne accorgi e non mi dici niente o mi tiri invece un calcio di disprezzo. Non importa, io ti amo. E questa è la giustizia di Dio. Perché se vedete dall'altra parte, dice: come è possibile che Dio sia giusto? Se Dio è giusto, deve premiare i buoni e castigare i cattivi, tutte le religioni lo dicono. Ma così non è mica giusto. Dio è giusto perché in quanto sta a Lui tratta tutti allo stesso modo, tratta tutti da film. Se poi uno ci sta o non ci sta, è responsabilità del film, non è più responsabilità del padre. Se vogliamo applicare a Dio le nostre categorie di padre, di figlio, d'altronde fa Gesù. La guarigione è totalmente gratuita. Totalmente gratuito. Il Dio di Gesù è quello della gratuità assoluta, non è il Dio del baratto, ecco, del dono fatto, ma a patto che ci sia la ricompensa del dono che fai, no? Nessun padre, nessuna madre si comportano così nei confronti del figlio. Hanno un baratto. Niente barattoli, manco barattoli, perché in posto, ecco, ad Arezzo mi diceva la donna, come si chiamava, era stata mia insegnante di Sacra Cura, diceva, l'hanno introdotta nelle giaculatorie della benedizione eucaristica, benedetto lo Spirito Santo, paralitico. Un altro dice: benedetto lo Spirito Santo barattolo. Ma no, avevano introdotto la giaculatoria: benedetto lo Spirito Santo paraclito. Paraclito significa consolatore. Adesso lo dicono in italiano, mi pare, quando fanno, cioè, non capiva più. L'ha chiesto una volta in sacrestia, cioè, cosa dice? Appunto, benedetto lo Spirito Santo barattolo. Altro dice: benedetto lo Spirito Santo paralitico, potenza del greco e delle lingue, ecco, che non conoscete. No, qui niente barattolo o baratto, qui la gratuità assoluta. Facciamo ancora un passo, siamo andati sempre di più verso l'impegnativo. Gesù non ha mai riconosciuto nella malattia un castigo divino. Non ha mai pensato a Dio come ad una possibile causa di sofferenza. Allora state attenti quando ci viene subito da dire: oh, accetta la volontà di Dio, sia fatta la volontà di Dio. Hanno una bestemmia se così stanno le cose. Non è un atto di fede, è una bestemmia. Gesù non ha mai riconosciuto nella malattia un castigo divino. Non ha mai pensato a Dio come una possibile causa di sofferenza. Questa era la mentalità del suo tempo, questo sì, ma che Gesù ha tentato invano di correggere, perché per 20 secoli dopo non è successo niente. Siamo tornati e siamo ai tempi di Gesù, né più né meno. Giovanni 9, versetto 3, 9 il capitolo, sapete, 9,3 vuol dire capitolo 9, versetto 3. Passando vide un uomo cieco dalla nascita, e il cieco nato, e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Un uomo castigato da Dio fin dalla nascita. Allora dietro ci sono dei peccati. Chi? Lui ha peccato. Ma lui non poteva peccare se è nato cieco. Allora sono i genitori che hanno pagato. Allora Dio fa scontare nel figlio il peccato dei genitori, dei nonni, dei bisnonni, andate a cercare. Ha peccato lui e i suoi genitori perché egli nascesse cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori. Basta con questa vostra teoria, siete matti a pensare questo. Né lui né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Se sapete coglierle, leggerle. Andiamo dall'oculista, poi anche loro fanno quel che possono, magari riesce alla prima operazione, altri occhi li devono pasticciare chissà quante volte. Uno stellino, mio amico, noi facciamo di nuovo, secondo me facciamo insieme nella messa e all'ospedale, perché per la seconda volta gli riaggiustano un occhio, aiutare i ciechi a vedere, ma aiutare i ciechi a vedere, c'è una vista e ci sono degli occhi che non sono soltanto quelli fisici. Per vedere fisicamente affidiamoci pure a dei bravi oculisti, ce ne sono, ecco, ma per altri gli occhi dello spirito forse possiamo diventare oculisti tutti quanti. E allora Gesù, soprattutto su questa linea, ecco, non prendete i miracoli come se fossero cose esterne, cose esteriori. Gesù ha risuscitato i morti, ma dentro, nello spirito. E poi per farvi capire questo, narrano la risurrezione materiale, che forse non è mai avvenuta, di 3 o 4 persone. Ecco perché forse deve essere capita in senso più profondo per trasmettere questo messaggio. Così ciechi, così agli altri. Poi si dà a caso, qualcosa improvvisamente possa succedere in virtù di tante forze psicofisiche che non sono conosciute ancora. Pensate a certi miracoli anche oggi che avvengono. E Gesù ha detto: ne farete più grandi di me. Miracoli in questo senso, soprattutto perché miracolo significa miro, qualcosa di meraviglioso, e non è meraviglioso se noi riusciamo a far vedere con occhi più profondi certe cose a un amico, a una persona che è nell'oscurità. Non li chiamiamo miracoli, perché ci siamo messi in testa che miracolo significa, ecco, cambiare 600 litri d'acqua in vino per degli avvinazzati, così siete belli contenti. Non è quello.